ad alta voce. Elio De Capitani legge Cristo si è fermato a Eboli di Carlo Levi. Non mi svegliarono di primo mattino le campanelle dei greggi come a Grassano, perché qui non vi sono pastori né pascoli né erba, ma il rumore continuato degli zoccoli degli asini sulle pietre della strada e il belar delle capre. È l'emigrazione quotidiana. I contadini si levano al buio perché devono fare chi due, chi tre, chi quattro ore di strada per raggiungere il loro campo, verso i greti malsani dell'Agri e del Sauro o sulle pendici dei monti lontani. La stanza era piena di luce. Il berretto con le iniziali non c'era più. Il mio compagno doveva essere uscito all'alba per portare i conforti della legge nelle case dei contadini prima che quelli partissero per la campagna. E a quest'ora forse già correva, col cappello sfavillante sotto il sole, il clarinetto e una capra al guinzaglio sulla strada di Stigliano. Dall'uscio mi giungeva un suono di voci femminili e un pianto di bambino. Una diecina di donne, con i bimbi in collo o per mano, aspettavano pazienti la mia levata. Volevano mostrarmi i loro figli perché li curassi. Erano tutti pallidi, magri, con dei grandi occhi neri e tristi nei visi cerei, con le pance gonfie, tese come tamburi, sulle gambette storte e sottili. La malaria, che qui non risparmia nessuno, si era già insediata nei loro corpi denutriti e rachitici. Io avrei voluto evitare di occuparmi di malati, perché non era il mio mestiere, perché conoscevo la mia poca competenza e sapevo che facendolo sarei entrato, e la cosa non mi sorrideva, nel mondo stabilito e geloso degli interessi dei signori del paese. Ma capii subito che non avrei potuto resistere a lungo nel mio proposito. Si ripeté la scena del giorno precedente. Le donne mi pregavano, mi benedivano, mi baciavano le mani. Una speranza, una fiducia assoluta era in loro. Mi chiedevo che cosa avesse potuto generarle. Il malato di ieri era morto e io non avevo potuto far nulla per evitarne la morte, ma le donne dicevano che avevano visto che io non ero come gli altri, un medicacciucci, ma ero un cristiano buono e avrei guarito i loro figlioli. Era forse il prestigio naturale del forestiero che viene da lontano e che è perciò come un dio. O piuttosto si erano accorte che, nella mia impotenza, mi ero tuttavia sforzato di far qualcosa per il moribondo e l'avevo guardato con interesse, con reale dispiacere. Ero stupito e vergognoso di questa fiducia, tanto piena quanto immeritata. Congedai le donne con qualche consiglio ed uscì. Dietro a loro, dalla stanza ombrosa, nella luce abbagliante del mattino. Le ombre delle case erano nere e ferme. Il vento caldo che saliva dai burroni sollevava nuvole di polvere. Nella polvere si spidocchiavano i cani. Volevo riconoscere i miei confini, che erano strettamente quelli dell'abitato, fare un primo viaggio di circumnavigazione della mia isola. Le terre attorno dovevano restare per me uno sfondo non raggiungibile oltre le colonne d'Ercole podestarili. La casa della vedova è all'estremità alta del paese, su uno slargo che termina, in fondo, alla chiesa, una piccola chiesetta bianca, appena più grande delle case. Sull'uscio stava l'arciprete, occupato a minacciare con un bastone un gruppo di ragazzi che, a qualche passo di distanza, gli facevano boccacce e sberleffi e si chinavano a terra nell'atto di volergli gettare delle pietre. Al mio arrivo i ragazzi scapparono come passeri. Il prete li seguì con lo sguardo corrucciato, brandendo il bastone e gridando: «Maledetti! Eretici! Scomunicati!» «È un paese senza grazia di Dio, questo», disse poi rivolgendosi a me. «In chiesa ci vengono i ragazzi per giocare, ha visto? Se no, non ci viene nessuno. La messa la dica ai banchi. Eppure battezzati sono. E i frutti di quelle poche terre, non c'è verso di farseli pagare. Non ho ancora avuti quelli dell'anno passato. Ah, sono tutti fior di galantuomini, davvero, in questo paese. Ah, se ne accorgerà. Era un vecchio piccolo e magro, con degli occhiali di ferro a stanghetta sul naso affilato, all'ombra del pendaglio rosso che scendeva dal cappello, e dietro agli occhiali degli occhietti pungenti che passavano rapidamente da una fissità ossessionata a un brillare brusco di arguzia. La bocca sottile gli cascava in una piega di abituale amarezza. Sotto all'abito sporco e sdrucito, pieno di frittelle sbottonato, spuntavano gli stivali scalcagnati e pieni di polvere. Da tutto il suo aspetto spirava un'aria stanca di miseria mal sopportata, come le rovine di una catapecchia incendiata, nera e piena di erbacce. Don Giuseppe Traiella non era amato da nessuno in paese. E dai signori del luogo, l'avevo sentito la sera prima nella loro conversazione, era addirittura esecrato. Gli facevano ogni sorta di villanie, gli aizzavano contro i ragazzi, si lagnavano di lui col prefetto e col vescovo. L'arciprete, se ne guardi, mi aveva detto il podestà, è una disgrazia per il nostro paese, una profanazione della casa di Dio. È sempre ubriaco. Non ci è ancora stato possibile liberarcene, ma speriamo di poterlo presto cacciar via. Almeno a Gaglianello, la frazione che è la sua vera sede. È qui da parecchi anni, per punizione. Lo hanno mandato a Gaglianello, lui che era professore di seminario, per castigo. Si permetteva certe libertà con gli allievi, lei mi capisce. A Gagliano ci sta per abuso, perché non ce n'è un altro. Ma è un castigo per noi. Povero Don Traiella. Se anche il diavolo lo aveva tentato nei suoi giovani anni, questa era ormai una cosa antica e dimenticata. Ora egli non si reggeva quasi in piedi. Non era che un povero vecchio perseguitato e inasprito, una pecora nera immalata in un gregge di lupi. Ma lo si capiva anche nella sua decadenza, ai bei tempi in cui insegnava teologia al seminario di Melfi, a quello di Napoli, Don Giuseppe Traiella da Tricarico doveva essere stato un uomo buono, intelligente, pieno di spirito e di risorse. Scriveva vite di santi, dipingeva, scolpiva, si occupava vivacemente delle cose del mondo. L'improvvisa disgrazia lo aveva colpito, lo aveva staccato da tutto e l'aveva buttato come un relitto su quella lontana spiaggia inospitale. Egli si era lasciato cadere a picco, godendo amaramente di fare più grande la propria miseria. Non aveva più toccato un libro né un pennello. Gli anni erano passati e di tutte le antiche passioni una sola era rimasta e aveva preso il carattere della fissazione, il rancore. Traiella odiava il mondo perché il mondo lo perseguitava. Si era ridotto a vivere solo, senza parlare con nessuno, nella sola compagnia di sua madre, una vecchia di 90 anni, inebetita e impotente. Il suo solo conforto, oltre alla bottiglia forse, era di passare il giorno a scrivere epigrammi latini contro il podestà, i carabinieri, le autorità e i contadini. «È un paese di asini questo, non di cristiani!» mi disse, invitandomi a entrare con lui nella chiesa. Ma sai latino, vero? Gaglianus Gaglianellus asinus et asellus nihil haglio din sella nisi Joseph Traiella. La chiesa non era che uno stanzone imbiancato a calce, sporco e trasandato, con in fondo un altare disadorno su un palco di legno e un piccolo pulpito addossato a una parete. I muri pieni di crepe erano ricoperti da vecchi quadri secenteschi, dalle tele scrostate piene di strappi, malamente appesi in disordine in parecchie file. «Questi vengono dalla vecchia chiesa. Sono le uniche cose che abbiamo potuto salvarli, guardi lei che pittore, ma non valgono molto. Questa d'ora non era che una cappella. La vera chiesa, la Madonna degli Angeli, era in basso, dall'altra estremità del paese dove c'è la frana. La chiesa è crollata improvvisamente, cascata nel burrone 3 anni fa. Per fortuna era notte, l'abbiamo scampata bella. Qui ci sono continuamente le frane. Quando piove, la terra cede, scivola e le case precipitano. Ne va giù qualcuna tutti gli anni. Mi fanno ridere con i loro muretti di sostegno. Fra qualche anno questo paese non esisterà più. Sarà tutto in fondo a un precipizio. Pioveva da 3 giorni quando è caduta la chiesa. Ma tutti gli inverni è la stessa cosa. Qualche disastro, piccolo o grosso, avviene tutti gli anni. Qui, come in tutti gli altri paesi della provincia. Non ci sono alberi né rocce e l'argilla si scioglie, scorre in basso come un torrente con tutto quello che c'è sopra. Vedrà quest'inverno anche lei. Ma le auguro di non essere più qui allora. La gente è peggio della terra. Profanum vulgus! Gli occhi dell'arciprete brillavano dietro gli occhiali. Abbiamo dovuto accontentarci di questa vecchia cappella. Non c'è il campanile. La campana è fuori, attaccata a un sostegno. Bisognerebbe anche rifare il tetto, ci piove. Si è dovuto anche puntellarla. Vede che crepe nei muri? Ma i denari? Chi me li dà? La chiesa è povera e il paese è poverissimo. E poi non sono cristiani, non hanno religione. Non mi portano nemmeno i regalucci d'uso. Figuriamoci per fare il campanile. È il podestà, Don Luigi, e gli altri sono d'accordo a non lasciar far nulla. Loro fanno i farmacisti. Vedrà, vedrà, le loro opere pubbliche. Il mio cane barone, inconsapevole della maestà del luogo, si affacciava all'uscio, stanco di aspettarmi, abbaiando, allegro, e non mi riusciva di scacciarlo, di farlo tacere. Presi allora congedo da Don Traiella e mi avviai per la stessa strada a sinistra della chiesa che avevo percorso il giorno prima, arrivando verso le prime case del paese. Era questa la zona che mi era apparsa il giorno avanti, passando rapido in automobile, accogliente e quasi gentile da alberi e di verde. Ma ora, sotto il sole crudo del mattino, pareva che il verde si fosse dissolto nel grigio abbagliante dei muri e della terra. Era un gruppo di case costruite in disordine ai lati della strada, con attorno degli orticelli stenti e qualche magro olivo. Quasi tutte le case erano costituite da una sola stanza senza finestre che prendeva luce dalla porta. Le porte erano sbarrate poiché i contadini erano nei campi. A qualche soglia stavano sedute delle donne con i bambini in grembo o delle vecchie che filavano la lana, e tutte mi salutavano con un gesto e mi seguivano con i grandi occhi spalancati. Qua e là alcune case avevano invece un primo piano e un balcone, e la porta di strada, invece di essere di vecchio legno nero e consumato, brillava pretenziosamente di vernice e si adornava di una maniglia di ottone. Erano le case degli americani. In mezzo alle catapecchie contadine stava una casetta lunga e stretta, a un piano, costruita da poco nello stile cosiddetto moderno, quello dei sobborghi delle città. Era la caserma dei carabinieri. Sulla strada e attorno alle case, nei mucchi di spazzature di rifiuti, le scrofe, circondate dalle loro famiglie di maialini, dal viso di vecchietti avidi e libidinosi, grufolavano diffidenti e feroci. E Barone ringhiava, rinculando, sollevando il labbro sulle gengive coi peli ritti in uno strano orrore. Dopo l'ultima casa del paese, dove la strada, superata una selletta, comincia a scendere verso il Sauro, c'era un breve spiazzo di terra disuguale, coperta a tratti di un'erba gialla intristita. Era il campo sportivo, opera del podestà Magalone. Qui dovevano esercitarsi i ragazzi della GIL e si dovevano fare le adunate di popolo. A sinistra un sentiero saliva ancora su un poggio poco distante, coperto di ulivi, e terminava a un cancelletto di ferro, aperto tra 2 pilastrini che si continuavano in un muretto basso di mattoni. Dietro il muretto spuntavano 2 sottili cipressi. Attraverso il cancello si vedevano le tombe, bianche sotto il sole. Il cimitero era il limite estremo, in alto, del terreno che mi era concesso. La vista di lassù era più larga che da ogni altro punto e meno squallida. Non si vedeva tutto Gagliano, che sta nascosto come un lungo serpente acquattato tra le pietre, ma i tetti rosso-gialli della parte alta apparivano fra le fronde grigie degli ulivi mosse dal vento, fuori della consueta immobilità, come cose vive. E dietro questo primo piano colorato, le grandi distese desolate delle argille sembravano ondulare nell'aria calda come sospese al cielo, e sopra il loro monotono biancore passava l'ombra mutevole delle nubi estive. Le lucertole stavano immobili sul muro assolato. Una, due cicale si rispondevano a tratti, come provando un canto, e poi tacevano, improvvise. Poiché di qui mi era vietato continuare, mi volsi al ritorno. Scendendo rapido al paese per la strada percorsa, ripassai davanti alla chiesa, alla casa della vedova e, giù per la discesa, arrivai all'ufficio postale e al muretto della fossa del bersagliere. Il podestà, maestro di scuola, era in quel momento nell'esercizio delle sue funzioni di insegnante. Stava seduto al balcone della sua classe e fumava guardando la gente sulla piazza e interpellando democraticamente tutti i passanti. Aveva in mano delle lunghe canne con le quali, ogni tanto, ristabiliva l'ordine senza muoversi dalla seggiola attraverso la finestra aperta, colpendo, con un colpetto abilissimo e ben aggiustato, la testa o le mani dei ragazzi che, lasciati soli, facevano troppo chiasso. «Bella giornata, dottore!» mi gridò dal suo arengo quando mi vide comparire sulla piazza. Di lassù, con le sue bacchette in mano, egli si sentiva veramente il padrone del paese. Un padrone affabile, popolare e giusto, e nulla poteva sfuggire alla sua vista. Non l'avevo ancora veduto stamattina. Dove è stato? A passeggiare? Su fino al cimitero? Bravo, bravo, passeggi, si diverta. Si trovi qua in piazza dopo colazione alle 5:30. Prima dormirà, credo. Le voglio far conoscere mia sorella. Dove va? A Gagliano di Sotto? A cercare alloggio? Mia sorella glielo troverà, non si preoccupi. Per un uomo come lei non ci vuole una casa di contadini. Ma le troveremo meglio, dottore. E buona passeggiata. Dopo la piazza la strada risaliva. Superava un costone e ridiscendeva in un'altra minuscola piazzetta circondata di case basse. In mezzo alla piazza si ergeva uno strano monumento, alto quasi quanto le case e, nell'angustia del luogo, solenne ed enorme. Era un pisciatoio. Il più moderno, sontuoso, monumentale pisciatoio che si potesse immaginare. Uno di quelli di cemento armato a quattro posti con il tetto robusto e sporgente che si sono costruiti soltanto in questi ultimi anni nelle grandi città. Sulla sua parete spiccava come un'epigrafe un nome familiare al cuore dei cittadini, ditta Renzi Torino. Quale bizzarra circostanza, o quale incantatore, o quale fata poteva aver portato per l'aria dai lontani paesi del nord quel meraviglioso oggetto e averlo lasciato cadere come un meteorite nel bel mezzo della piazza di questo villaggio, in una terra dove non c'è acqua né impianti igienici di nessuna specie per centinaia di chilometri tutt'attorno. Era l'opera del regime, del podestà Magalone. Doveva essere costato, a giudicare dalla sua mole, le entrate di parecchi anni del comune di Gagliano. Mi affacciai al suo interno. Da un lato un maiale stava bevendo l'acqua ferma nel fondo del vaso, dall'altra due ragazzi ci buttavano barche di carta. Nel corso di tutto l'anno non lo vidi mai adibito ad altra funzione, né abitato da altri che non fossero maiali, cani, galline o bambini. Se non la sera della festa della Madonna di settembre, in cui alcuni contadini si arrampicavano sul suo tetto per meglio godere, da quell'altezza, lo spettacolo dei fuochi artificiali. Una sola persona lo usò spesso per l'uso per cui era stato costruito. E quella persona ero io. E non lo usavo, debbo confessarlo, spinto dal bisogno, ma mosso dalla nostalgia. A un angolo della piazzetta, dove quasi giungeva l'ombra lunga del monumento, uno zoppo, vestito di nero, con un viso secco, serio, sacerdotale, sottile come quello di una faina, soffiava come un mantice nel corpo di una capra morta. Mi fermai a guardarlo. La capra era stata ammazzata poco prima, lì sulla piazzetta, e sdraiata sopra un tavolaccio di legno su due cavalletti. Lo zoppo, senza tagliarne altrove la pelle, aveva fatto una piccola incisione in una delle zampe di dietro, vicino al piede, e all'incisione aveva posto la bocca, e a forza di polmoni andava gonfiando la capra, staccandone la pelle dalla carne. A vederlo così attaccato all'animale, che andava mano a mano mutando e crescendo, mentre l'uomo, senza mutare contegno, pareva assottigliarsi e svuotarsi di tutto il suo fiato, sembrava di assistere a una strana metamorfosi, dove l'uomo si versasse a poco nella bestia. Quando la capra fu gonfia come una mongolfiera, lo zoppo, stringendo con una mano la zampa, staccò finalmente la bocca dal piede dell'animale e se la pulì con la manica. Poi, rapidamente, si pose a rovesciare la pelle della capra come un guanto che si sfili, fino a che la pelle intera fu tutta sgusciata e la capra, nuda e spelata come un santo, rimase sola sul tavolaccio a guardare il cielo. «Così non si sciupa, si possono farne degli orci», mi spiegò lo zoppo pieno di sussiego, mentre un ragazzo docile e taciturno, suo nipote, lo aiutava a squartare la bestia. «Quest'anno c'è parecchio lavoro, i contadini ammazzano tutte le capre. Per forza, la tassa chi può pagarla?» Pare infatti che il governo avesse da poco scoperto che la capra è un animale dannoso all'agricoltura, poiché mangia i germogli e i rami teneri delle piante, e aveva perciò fatto un decreto valido ugualmente per tutti i comuni del regno, senza eccezione, che imponeva una forte imposta su ogni capo del valore all'incirca della bestia. Così, colpendo le capre, si salvavano gli alberi. Ma a Gagliano non ci sono alberi, e la capra è la sola ricchezza del contadino, perché campa di nulla, salta per le argille deserte e dirupate, bruca i cespugli di spine, vive dove, per mancanza di prati, non si possono tenere né pecore né vitelli. La tassa sulle capre era dunque una sventura, e poiché non c'era il denaro per pagarla, una sventura senza rimedio. Bisognava uccidere le capre e restare senza latte e senza formaggio. Lo zoppo era un proprietario decaduto, ma fiero tuttavia della sua posizione sociale, che per campare faceva molti mestieri e fra l'altro era suo compito il sacrificio delle capre. Grazie al provvido decreto ministeriale potei quell'anno trovar spesso da lui della carne. Negli anni precedenti, mi disse, mi sarei dovuto accontentare di mangiarla molto di rado. Egli si occupava anche di amministrare i beni di qualche proprietario che non abitava in paese, sorvegliava i contadini, faceva da sensale nelle vendite, metteva mano ai matrimoni, conosceva tutto e tutti, e non c'era avvenimento o fatterello dove non si vedesse comparire silenziosamente la sua gamba zoppa, il suo abito nero e il suo viso volpino. Era curiosissimo, ma nelle parole riservato. Le sue frasi si fermavano a mezzo, a lasciare intendere che egli sapeva molto più che non dicesse, e sempre con un che di solenne e dignitoso e terribilmente serio, quasi a smentire il suo cognome, Carnovale. Come seppe che cercava un alloggio e possibilmente abbastanza grande e luminoso da poterci dipingere, rifletté un poco, con aria concentrata, e mi disse che c'era il palazzo dei suoi cugini che io forse conoscevo, perché erano dei grandi dottori di Napoli. Avrei forse potuto averne una parte, due o tre stanze. Avrebbe subito scritto in città. Sarebbe stata per me una fortuna, era la sola casa che potesse convenirmi. Era vuota, ma un letto e gli altri mobili necessari me li avrebbe potuti affittare lui. Se intanto volevo visitarlo, mi avrebbe subito fatto accompagnare dal nipote con le chiavi. Mi avviai col ragazzo, anche lui nero, triste, compassato come lo zio. La strada scendeva ancora dopo la piazzetta finché arrivava ad un punto dove i due burroni di destra e di sinistra non lasciavano più posto per le case, e lì scorreva sullo stretto ciglione fra due muretti bassi, al di là dei quali l'occhio si perdeva nel vuoto. Era un intervallo di un centinaio di metri fra Gagliano Alta e Gagliano Bassa. E qui, fra le due gole, il vento soffiava violento in perpetuità. Verso il mezzo di questo intervallo, in un punto dove il ciglione si allarga un poco, c'era una delle due sole fontanelle del paese. L'altra l'avevo vista in alto, vicino alla chiesa. La fontanella, che dava l'acqua per tutta Gagliano di sotto e per buona metà di Gagliano di sopra, era allora affollata di donne, come la vidi poi sempre, in tutte le ore del giorno. Stavano in gruppo attorno alla fontana, alcuni in piedi, altre sedute per terra, giovani e vecchie, tutte con una botticella di legno sul capo e la brocca di terra di ferrandina. Ad una si avvicinavano alla fontana e aspettavano pazienti che l'esile filo d'acqua riempisse gorgogliando la botte. L'attesa era lunga. Il vento muoveva i veli bianchi sui loro dorsi diritti, tesi con naturalezza nell'equilibrio del peso. Stavano immobili nel sole, come un gregge alla pastura, e di un gregge avevano l'odore. Mi giungeva il suono confuso e continuo delle voci, un sussurrare ininterrotto. Al mio passaggio nessuna si mosse, ma mi sentii colpito da decine di sguardi neri che mi seguirono fermi e intensi, finché, superato l'intervallo, ricominciai a salire per giungere alle case di Gagliano di sotto, che ridiscende poi fino alla chiesa diroccata e al precipizio. Giungemmo in breve al palazzo, e davvero era la sola costruzione in paese che potesse portare questo nome. Di fuori aveva un aspetto tetro, con i suoi muri nerastri e le piccole finestre ferrate, e i segni di un secolare abbandono. Era la vecchia dimora di una famiglia nobile che da tempo aveva emigrato. Era stata poi adibita a caserma dei carabinieri, che l'avevano lasciata per la nuova sede modernizzante. Del passaggio dei militi serbava nell'interno i ricordi, nella sporcizia e nello squallore delle pareti. C'erano ancora le celle di sicurezza, ricavate dividendo un salone, buie, con le bocche di lupo alle finestrelle e grandi catenacce alle porte. Ma le porte, gonfiate dall'acqua e dai geli, non chiudevano più. I vetri delle finestre erano tutti rotti. Uno spesso strato di polvere portata dal vento copriva ogni cosa. Dal soffitto, dorato e dipinto, pendevano lembi di pittura e ragnatele. I pavimenti di pietra bianca e nera a disegno erano sconnessi e qualche grigio filo d'erba cresceva negli interstizi. Al nostro ingresso nelle sale eravamo accolti da un rumore rapido e furtivo, come di animali che corressero impauriti nei loro nascondigli. Spalancai una porta finestra. Mi affacciai a un balcone dalla pericolante ringhiera settecentesca di ferro e, venendo dall'ombra dell'interno, rimasi quasi accecato dall'improvviso biancore abbagliante. Sotto di me c'era il burrone. Davanti, senza che nulla si frapponesse allo sguardo, l'infinita distesa delle argille aride, senza un segno di vita umana, ondulanti nel sole a perdita d'occhio, fin dove, lontanissime, parevano sciogliersi nel cielo bianco. Nessun'ombra svariava questo immobile mare di terra, divorato da un sole a picco. Era mezzogiorno, ora di rientrare. Come avrei potuto vivere in questa rovina nobiliare? Tuttavia il luogo aveva un suo triste incanto. Avrei potuto passeggiare sulle pietre sconnesse dei saloni, e preferivo per compagnia delle mie notti i pipistrelli agli ufficiali esattoriali e alle cimici della vedova. Forse, pensavo, avrei potuto far rimettere i vetri, farmi arrivare da Torino una zanzariera per proteggermi dalla malaria e ridar vita ai muri arcigni e cadenti del palazzo. Dissi allo zoppo che mi aspettava sulla piazzetta con la sua capra squartata che scrivesse a Napoli e risalì verso casa. Arrivato al muretto della fossa del bersagliere sulla piazza, vidi un giovane biondo, alto e aitante, con una camicia cittadina dalle maniche corte, uscire dall'usciolo di una catapecchia portando in mano un piatto di spaghetti fumanti, traversare la piazza, posare il piatto sul muretto, lanciando un fischio di richiamo e rientrare poi rapidamente di dove era venuto. Mi fermai, incuriosito, a guardare di lontano quella pasta asciutta abbandonata. Subito, da una casa di faccia, uscì un giovane alto, bruno questo e bellissimo, con un viso pallido e malinconico, vestito di un abito grigio di taglio elegante. Andò al muretto, prese il piatto degli spaghetti e ritornò sui suoi passi. Giunto sulla soglia, lanciò un'occhiata circospetta alle finestre e alla piazza deserta, si volse verso di me, sorrise, mi fece con la mano un amichevole cenno di saluto e subito, chinandosi per passare nella porticina bassa, scomparve in casa. Don Cosimino, il gobbetto della posta, stava chiudendo il suo ufficio e dal suo angolo nascosto aveva visto tutto come me. Si accorse del mio stupore e mi fece col capo un cenno d'intesa. Io lessi la simpatia nei suoi occhi tristi e arguti. «Questa scena, mi disse, avviene tutti i giorni a quest'ora. Sono due confinati come lei. Quello biondo è un muratore comunista di Ancona, un ottimo ragazzo. L'altro è uno studente di scienze politiche di Pisa. Era ufficiale della milizia e comunista anche lui. È di famiglia modesta, ma non gli danno il sussidio perché sua madre e sua sorella sono maestre, perciò dicono hanno i mezzi per mantenerlo. Prima i confinati potevano stare assieme, ma da qualche mese Don Luigi Magalone ha dato l'ordine che non debbono neppure vedersi. Quei due che facevano cucina comune per economia, ora sono costretti a preparare il pranzo a turno, un giorno per uno, e a portare i piatti sul muretto, dove l'altro li va a prendere quando il primo è già rientrato in casa. Se no, se si incontrassero, chissà che pericolo per lo Stato. C'eravamo incamminati insieme su per la salita. Don Cosimino abitava non lontano dalla casa della vedova con la moglie e parecchi bambini. Don Luigi ci bada molto a queste cose. Lui è per la disciplina. Le pensano insieme lui e il brigadiere. Con lei spero sarà diverso. Ma ad ogni modo, non se la prenda, dottore. Don Cosimino mi guardava di sotto in su, consolatore. Hanno la mania di fare i poliziotti, vogliono saper tutto. Il muratore ha avuto anche delle noie. Parlava con dei contadini e cercava di spiegare le teorie di Darwin, che l'uomo deriva dalla scimmia. Io già non sono darwinista, e Don Cosimino sorrideva arguto, ma non ci vedo nulla di male se qualcuno ci crede. Don Luigi lo è venuto a sapere naturalmente e ha fatto una scenata terribile. L'avessi sentito gridare, ha detto al muratore che le teorie di Darwin sono contro la religione cattolica, che il cattolicesimo e il fascismo sono una cosa sola e che perciò parlare di Darwin è fare dell'antifascismo. E ha scritto anche a Matera, alla questura, che il muratore faceva propaganda sovversiva. Ma i contadini gli vogliono bene. È gentile e sa far di tutto. Eravamo arrivati a casa sua. «Stia di buon umore», mi disse. «Lei è appena arrivato e si deve abituare. Ma tutto questo passerà!» Quasi timoroso di aver detto troppo, questo angelo gobbo mi salutò bruscamente e mi lasciò.